Italia in controluce. È il 10 di gennaio e vi saluta Daniele Biacchessi. Italia in controluce è, come sempre, lo ricordo, l'approfondimento del giornale della redazione di Radio 24, che va in onda quest'ora perché è a mezza giornata, quindi può fare il punto su uno dei temi chiave. Quest'oggi vogliamo un po' salire, ritornare anche alla memoria, perché un anno fa, il 13 gennaio del 2012, la nave di crociera Concordia, con circa 4.000 persone a bordo, andava alla deriva davanti all'isola del Giglio. Il suo comandante Schettino abbandonava lo scafo prima di aver messo in salvo tutti i passeggeri, 32 le persone annegate. Il suo nome, per favore? Sono il comandante Schettino, comandante. Schettino? Sì. Ascolti, Schettino, ci sono persone intrappolate a bordo. Adesso lei va con la sua scialuppa sotto la prua della nave, lato dritto. C'è una biscaggina. Lei sale su quella biscaggina e va a bordo della nave. Va a bordo della nave e mi viene a dire, mi riporta quante persone ci sono. È chiaro? Io sto registrando questa comunicazione, comandante Schettino. Allora, comandante, le dico una cosa. Parli a voce alta. Allora, la nave adesso, io sono qua di fronte... Comandante, parli a voce più alta, metta la mano davanti al microfono e parla a voce alta. Chiaro? In questo momento, la nave è inclinata... Ho capito. C'è gente, ascolti, c'è gente che sta scendendo dalla biscaggina di prua. Lei quella biscaggina la percorre in senso inverso, sale sulla nave e mi dice quante persone e che cosa hanno a bordo, chiaro? Gli dice se ci sono bambini, donne o persone bisognose di assistenza e me ne dice il numero di ciascuna di queste categorie, è chiaro? Vado a bordo, mi coordini i soccorsi da bordo. Lei si rifiuta? No, no, non mi sto rifiutando. Lei si sta rifiutando di andare a bordo, comandante? No, no, e mi dica qual è il motivo per cui non ci va. Ci sto andando perché ci sta l'altra lancia che si è fermata. Lei vada a bordo, è un ordine, lei non deve fare altre valutazioni, lei ha dichiarato l'abbandono nave, adesso comando io. Drammatica questa telefonata per ricordare, per non dimenticare. Italia in controluce oggi racconta una delle pagine più nere della marineria italiana. E voi cosa pensate del naufragio del Concordia un anno dopo? Secondo voi è solo colpa di Schettino, di questo capitano guascone che abbandona la nave e l'abbandona proprio in uno dei momenti più complicati, nel momento in cui appunto si dovrebbero salvare delle vite umane? Oppure ci sono anche altre responsabilità? E perché queste responsabilità un anno dopo non sono emerse in tutta la loro drammaticità? 349-238-6666, i vostri sms, a che punto sono il processo e l'inchiesta? Siamo collegati con Raffaella Calanda. Raffaella. Sì, Daniele, buongiorno a te e ai nostri ascoltatori. Il processo, dopo un lungo incidente probatorio, la Procura di Grosseto ha chiuso le indagini e tra una ventina di giorni, cioè i termini tecnici, si prepara a presentare la richiesta di rinvio a giudizio per gli 8 indagati, compreso a cominciare anzi dal comandante Francesco Schettino. Ma ci sono non pochi sono i problemi per gli uffici giudiziari di Grosseto, a cominciare dall'alto numero delle parti in causa, come appunto i 4.200 passeggeri che erano a bordo, che quindi si sono trasformati anche in altrettanti, diciamo, parti offese nel processo, ma anche problemi legati alla notifica. Ad esempio, adesso ancora non sono riusciti a notificare l'avviso di conclusione d'indagine al timoniere che è in Sri Lanka e non hanno ancora diciamo avuto la conferma che abbia ricevuto quest'atto. Sembrano problemi burocratici, ma lo sono, ma sono problemi che possono determinare il cammino, diciamo, di questo processo, che comunque nel giro di un paio di mesi dovrebbe arrivare a udienza preliminare, perché la Procura di Grosseto sembra intenzionata a stralciare, cioè a mettere in un altro fascicolo la posizione del timoniere che non è stato raggiunto, e a concentrarsi sulle responsabilità già accertate, a cominciare da quelle del comandante Francesco Schettino, che, come ci ha detto in questa intervista il procuratore capo Verusio, comandava la nave la Concordia come si fa con un gombone. Sentiamolo. Questa complicata, difficile, ci ha fatto confrontare con convenzioni internazionali erano cose, diciamo, che non c'erano molto familiari, non solo difficoltà tecniche, anche per il fatto del numero delle persone coinvolte di varia nazionalità. Certo. Stiamo ancora adesso cercando di notificare l'avviso di garanzia al timoniere, che sono 3 mesi che abbiamo mandato questa notifica a Giacarta e ancora non abbiamo la certezza che questo documento sia stato effettivamente consegnato. Quindi, e questo può in qualche modo ostacolare o addirittura pregiudicare un po' i prossimi passaggi? Sicuramente i difensori ci farebbero questione, perché non abbiamo la prova certa e certificata dell'avvenuta notifica. Tutte queste convenzioni internazionali che disciplinano i compiti dell'equipaggio in casi di emergenza, in una situazione di questo tipo le responsabilità più importanti ce l'ha il comandante della nave. Ha deciso di non seguire la rotta che era stata disegnata, ma praticamente Schettino navigava, governava questa nave come fosse su un gommone, senza una rotta tracciata, di notte a 16 nodi all'ora, una nave di 300 metri che veniva governata a vista e col timone a mano. Come se fosse un gommone o un motoscafo estivo con cui si va un po' in giro. A bordo di una barchetta. Da parte vostra voi sentite di essere riusciti a dare delle risposte anche ai naufraghi o ai familiari delle vittime su quello che è avvenuto? Credo quella notte che i familiari delle vittime alla fine avranno soddisfazione, perché sapranno esattamente di chi è stata la responsabilità di tutto quello che è accaduto. Ecco, però la vostra inchiesta coinvolge, anche se in modo diverso, anche la stessa società. Eh sì, perché anche il ruolo del supporto a terra che doveva avere il comandante non è stato quello che avrebbe dovuto essere. Non abbia rappresentato anche per voi un'ulteriore difficoltà questa dimensione anche così particolare del personaggio e di quello che è emerso dalla stessa indagine sulla sua condotta? Il personaggio è un po' sconcertante. Lei si sente soddisfatto dal fatto che dopo questa vicenda del naufragio del Giglio ci sono state anche delle novità normative? Credo che stiano rivedendo un po' le norme internazionali che disciplinano i poteri del comandante nell'ipotesi di emergenze a bordo, per cui il comandante credo che debba essere supportato da alcuni ufficiali anche da terra. Quando è successo il naufragio della Concordia, praticamente Schettino era il primo e unico responsabile di tutto quello che accadeva sulla nave. Poi a un certo punto lui se ne va e hanno fatto si salvi chi può. Oltre che aver già portato ad una modifica anche della distanza di avvicinamento delle navi da crociera rispetto a certi luoghi delle coste. Sì, ma guardi che il problema dell'inchino in questa vicenda c'entra poco, perché se la nave fosse passata per l'inchino a 100 metri di distanza non sarebbe accaduto assolutamente niente. L'inchino è stata una bravata, in modo irresponsabile è stata fatta una manovra che non avrebbe dovuto e potuto fare. Ecco, avete sentito il procuratore capo di Grosseto Francesco Verusio al microfono di Raffaella Calanda, che ricordo e che ringrazio, ricordo lo scorso anno era andata per Radio 24, aveva realizzato dei bellissimi reportage con tante voci e con molte testimonianze. Allora, sono arrivati i vostri sms al 349-238-6666. Per un ascoltatore il fatto che il timoniere, al timoniere di Sri Lanka poi viene notificato qualcosa di giudiziario a Giacarta, probabilmente sarà cosa molto complicata, anzi durissima, dice e scrive un nostro ascoltatore. Gianni da Treviso dice che alla fine faranno anche un film su Schettino e lui ci guadagnerà. Per Gianni da Treviso è una vergogna. Un altro ascoltatore si scaglia contro di noi, contro la stampa, dicendo che è un'altra vicenda inquinata dall'esigenza della stampa di creare un mostro da sbattere in prima pagina. Tutti bravi a dire che cosa è successo dopo. Per un altro ascoltatore è soltanto colpa di Schettino. La colpa non è solo di Schettino, dice Robby, ma di tutto il personale di bordo. Se tutti sapevano che la manovra dell'inchino era vietata, perché nessuno dei marinai l'ha mai denunciato, dice Robby. 349-238-6666. Sempre Raffaella Calanda ha intervistato Sergio Ottelli, che è il sindaco di Algiglio, perché gli altri temi restano sicuramente la presenza della nave all'isola del Giglio, lo sviluppo turistico dell'isola e le richieste degli amministratori. Viene ridotta la sua dimensione perché i mezzi che devono palificare tra la roccia e la nave e quelli che devono invece operare nel lato mare, il lato esterno, hanno bisogno di spazio. Lo spezzettamento di certe parti della nave è in qualche maniera obbligatorio farlo. A questo punto che tempi avete, che tempi vi sono stati dati per il momento in cui la nave verrà raddrizzata e poi spostata? Avevo chiesto circa 2 mesi e mezzo fa anche una verifica sui tempi, perché qualcosa non quadrava. La nostra preoccupazione più grande è l'avvicinarsi della stagione del 2013. La rimozione della nave cadrà proprio nell'ambito della stagione. Io auspico che non sia fatta nel corso della stagione, ma ritengo che sia verosimile pensare tra settembre e ottobre come il mese in cui finalmente vedremo andar via il relitto e probabilmente risorgerà anche il Giglio e riprenderà quella quotidianità, quella normalità che era propria, che era nostra prima del 13 gennaio del 2012. La responsabilità dei morti e della compagnia, dice il nostro ascoltatore, che ha ritardato i soccorsi per motivi economici. Questo avete scritto al 349-238-6666. Ringrazio Raffaella Calanda per le interviste. Ricordo che Italia Contro Luce va in onda tutti i giorni a quest'ora, che ha una pagina Facebook e anche un gruppo, che ha un luogo su Twitter chiamato In Controluce, e poi la nostra email è controluce@radio24.it. Un saluto da Daniele Biacchesi.